Ho fatto anche due gocce mi qua. Per mezzo minuto ha piovuto. Piovigginato, dai. Anche un po' di scarico. Sì, c'è il volume basso, Gianfranco. C'è sempre. Avete provato in due, dai, non si riesce. In tre siamo già trotti. Io mi stavo a fare scaldare una pizza e così vediamo se entra qualcuno. Poi c'è una tastra, un po' di nuvole, poi usciva il sole, poi si rianuvolava. Va bene, vediamo cosa ci riserva la serata. Io mi sono mangiato un pizza, si va in Toscana, questa è una famiglia. Io fra poco faccio colazione, come ho detto, come dice Gianfranco, sì, Federico arriverà a fare colazione a quest'ora. Praticamente sto facendo la vita del vampiro io. Ma non c'è fame, non si chiama. No, perché tale, cioè sono così disabituato agli orari normali che per me comunque è tutto commisurato. Vado a dormire molto ma molto tardi, tanto il sonno non mi viene prima. Qui alla Biocco verso le 8 o 9, però poi passa e quindi per me è tutto commisurato. Ceno tardi ma vado altrettanto tardi a letto, quindi ha voglia di digerire e ha voglia. Cappa, chiappa. La cena che la fai, ma? Mezzanotte. Ciao, dipendi, buonasera. Nicola ha breccato. C'è Nicola? Ehi. Ciao Nicola, buonasera a te, dai, mi sentito, va. Santiago 3, Radio 1. È molto QSB da parte mia. Il segnale scende da 5 a 8, sale e scende. Non ho capito questo sono. Cappa. E adesso l'è ferrato per Pucciolo, dai, dopo sta salendo l'è ferrato. Va bene, amico, ti aspettiamo a braccia aperte, dai. Non ti abbracciamo perché con coronavirus non si sa mai. Adesso le commesse dei market stanno usando i guanti, no? E certe volte viene voglia di farlo apposta per chiedere qualcosa, no? Scusi, avete questo articolo, mi avvicino e quelle si allontanano. Tu guardi, c'ho la febbre, c'ho la tosse, la febbre. Te le immagini? A proposito, come dicevamo del procurato allarme, un ragazzetto di non so dove ha fatto un video, praticamente c'era polizia e ambulanza che era intervenuta per altri motivi, no? Tipo un anziano che si era sentito male, e lui praticamente ha fatto il video dei mezzi di soccorso che arrivavano dicendo che era scoppiato un caso di coronavirus, questo in continente. Insomma, la gente si è fatta prendere dal panico per questo video, ovviamente diffuso in rete, e il ragazzetto è stato puntualmente denunciato per procurato allarme. Vabbè, certo di sì. Adesso un cazzo si prendono gioco anche di queste cose qua, ma stiamo scherzando. Sono cose serie, non so cosa giocare, è ancora una cazzata la gente che ci sono le cose serie e le cose che si può giocare. È come la volta che c'era questo tipo che a Castello chiamava dalla cabina telefonica, ambulanza, polizia, carabinieri, ci crocevamo tutti lì in campo e non c'era niente. E praticamente poi hanno mandato la parte della polizia cortese, l'hanno chiamata dalla cabina, ma poi quando l'hanno preso gli hanno messo la testa del processo, gli hanno fatto cantare questo video di te, poi l'hanno fatto marciare, lo prendevano tutti a calci. Poi me l'ha raccontato lui, non è che questo qui me l'ha raccontato lui. Dice, non so, mi chiamavo, ma non facevo per scherzare, così, ma mi hanno fatto, vabbè, come se avevo fatto per l'Italia, sono messo in fila, mi facevano marciare, e quando io marciavo, mi prendevano tutti a calci da sedere. Eh beh, quello è il trattamento standard, credo che sia anche nel manuale. Poi hanno messo la stessa nel cesso, se no sta camminando a bordo. Ehi, poi in Piazza Castello c'era quella specie di citofono per chiamare la polizia in diretta, chi se lo ricorda, che aveva un lampeggiante giallo sopra. Gianfra, come si chiama l'equivalente inglese che avevano negli anni 60 e 70? Quello che usava il dottor U per viaggiare nel tempo, il TARDIS per caso, era una cabina apposita per chiamare proprio la polizia in diretta. La colonnina, andiamo alla ricordo. Colonnina SOS. Ehi, mamma non ce la ricorda, lo sai, eppure lì andando al centro non ce la ricorda proprio, ho dovuto farle vedere le foto prese da internet. Mi piovendo di nuovo, porca miseria. Sta gravitando. E Nicola che vuole chiudere sul tetto, non credo che convengano. Fa con l'ombrello Nicola, lei ha pensato. Detto fa l'ombrello c'è l'antenna, la punta c'è la sua antenna. La mette sulla punta dell'ombrello. Così tutti i fulmini sono fuori. Guarda, adesso non dobbiamo più altro, perché cresce con la punta. Mamma mia, questo ecco già, però è vero che certe volte prende la testa perché non seguo bene le parole, boh, vabbè, de gusti bush, non disputandum. Oh, non ha mai dato fastidio queste casce, questo periodo si è tutti con questa fila dell'ecco, guarda, invece va bene adesso. È un po' meglio già, no, perché no, non dico la capibilità, però prende la testa. Prima era un po', adesso è meglio, è più, mamma mia quanto sta piovendo, io temo se io al primo lampo che vedo stacco tutto e vi avviso, già da adesso, ritenetevi salutati. Esagerato, cosa devo dire io? Già sei un po' esagerato, avanti il pomeriggio, io sempre basso, la radio è bassa, comunque ti ascolto, vai, adesso ti ascoltarsi, avanti. Io ho quel RM elettrico, invece Gianfranco se potesse spingere appena la radio sarebbe buono. E mi ha detto che era troppo bassa, quindi l'ho abbassata. E niente, mi avvicino al microfono, faccio prima. No, io lo sento peggio, prima almeno non ascoltavo quello che diceva, adesso è in mezzo al suo servizio. Questa antenna non si mette proprio, basterebbe anche un'antenna corta proprio di emergenza, una boomerang, arriverebbe abbastanza forte, ma così è veramente basso. S9 R5. 915 Radio 5, ciao Giuseppe. Allora, io che sono lontano, più lontano rispetto a loro, Santiago 6 modulato 7,5. E adesso ho modulato anche 8,8, è salito un po'. Ogni tanto io qua ho quel REM elettrico dato dalla pioggia battente, ho dovuto inserire il noise blanker ANL. Giuseppe, sino a 1,5 va anche bene, dai. Interessante che non si può di 1,5. Ah, già può andare per passaggi in cui può andare. Brutto è quando è a 2 e è sul rosso, dai. Avanti, Gianfranco. Sì, vediamo Nicola, se mi può dire a che piano è e quanti piani ha il palazzo. Se mi dicevi Nicola, a che piano sei e il palazzo quanto è alto, se sei a un primo piano o un ultimo piano. Non mi dicevi, ho sceso giù perché c'è il vento forte. L'ho portato via, lui l'ha preso. Vabbè, riprendi Marco. Un quesito per Gianni. Ieri stavo seguendo discontinuamente il discorso, ma cioè, tu hai cambiato antenna, ti hanno chiesto che cosa? Che dovevi avvertire ogni condomino di che cosa? Che hai cambiato antenna, cosa vogliono sapere? Siccome nel mio tetto c'è stato un frutto, sono entrati dalla cabina dell'ascensore e sono andati nei piatti, ci hanno rubato oro, eccetera, eccetera. Questo a luna di questa qua era un insegnante, quando è tornata ha trovato la casa svuota. E praticamente adesso uno che sale sul tetto, questa qua può sapere chi sale e chi scende. Ha detto, ma ascolta, l'altra è stata da te, non so, ma siccome il tetto di tutti, bisogna fargli sapere, detto, sì, adesso spende il cacca e dorme, ma ti la pizza, non ci va. Vabbè, comunque l'antenna piazzata è, non è che sali e scendi tutti i giorni, no? Oh, vabbè, che qua, ma voi il terrazzo, cioè, è di tutto il palazzo o è di un privato che l'ha acquistato? No, è di tutto il palazzo, abbiamo un tanto qui. Io dalla mia parte ho messo l'antenna, quindi che non verrò per onestà. Ah, vabbè, comunque niente di nuovo, dai, niente di che. No, perché qua, giustamente qua il terrazzo del palazzo è in due parti, no? Ed è di proprietà però di persone che hanno l'appartamento e che hanno comprato il terrazzo. Quindi giustamente bisogna chiedere, salendo bisogna chiedere la chiave al proprietario, non è che ognuno ha la chiave, in modo da sapere appunto se uno sale a far danno e chi lo sa cosa può succedere, no? Soprattutto in questi tempi con questa gioventù un po' bruciata, leggermente bruciata. E vabbè, niente di che. E una volta mi aveva detto il proprietario del terrazzo riguardo al cavo che passava nemmeno in mezzo cammino, passava aderente al muretto, all'angolo, dice, ma non c'è servitù di passaggio, sì, c'è la servitù, caro. Gli piacerebbe. Quello che devo fare in fretta è tutta la roba dell'antenna a legno, perché l'ho lasciata da parte, ma non se l'hanno ancora ritirata, secondo come va, io poi decido perché stanno per non le palle tutta la roba lì, anche se è messa bene tutto quanto, ma che già me l'ha detto una volta, adesso la seconda volta fa la lettera, ecco, vabbè. Adesso io vero, se ce la ritirano se ne ci studia, tanto è l'antenna vecchia che c'era, io non è che posso stare a aspettare chissà quanto, l'ho aspettato già tanto e ho paura che poi mi si ritorca tutto contro, perché c'è la scala, mi ha detto la scala può servire anche per scendere nell'attico, aiutare i ladri a rubare, eccetera, eccetera, adesso dopo scendere. Ma io stavo accennando, se serve la macchina per portare via l'antenna, per chi è che la chiedeva, Claudio, basta farmi un fischio, però, no, non però, se serve, perché tu, vabbè, tu non sei convalescente, non ti puoi muovere, Claudio è senza macchina, non lo so, no. Sembra che sia un problema portare via due pezzi d'antenna, come mai? Se non c'è mezzo per portarla, io macchina mia non è carico, perché carico la macchina è nuova, non è che faccia la macchina, e a costo di portarle a un lavoro in più, tutta c'è via. Domanda, ma ci stanno i singoli elementi dell'antenna dentro la macchina? Tipo reclinando un sedile anteriore? Sì, di lungo. Ha preso proprio il sì. Non è che sia, non sentirete che sta smontata, ci sono i radiali che sono dentro un cartone, il cartone dell'antenna nuova l'abbiamo utilizzato per metterci sia alcuni radiali, poi ci sono i pezzi dell'antenna e il blocco dove si mettono i radiali, là. C'è quello di basta, non è che sia niente di che, solo che questa cosa mi sta premendo, sta rompendo le scarpe, avanti. Ma infatti, ma solo che l'avevo promessa questa antenna, capito? L'ho promessa e dovevano venire a prendersela, ma non c'hanno macchina e cose, adesso bisogna vedere come si può risolvere questo problema, perché io sono così ancora, cioè, mi hanno appena operato, quindi non è che possa fare dei sforzi o cosa del genere, ci vuole qualcuno che lo faccia per me, la verità. È sotto una tettoia, è sotto una tettoia ben riparata con la scala sopra per non muoversi, solo che c'è anche la scala, può servire ai lati magari per scendere degli attici, capito? Perché gli attici sono più giù del tetto, appena più giù, quindi vanno nel terrato con la scala e sali giù. Infatti no, ma io dall'inizio la volevo portare via, solo che quando sono venuti non avevano la macchina, quindi non l'hanno portata via, dice lasciamela perché domani, dopodomani vengo a tirarla, c'è ancora lì. E poi questa qua è accanita perché gli hanno aperto la casa, capito? Ma sai cosa hanno fatto? Hanno smontato la finestrella che c'è nel coso dell'ascensore. Praticamente c'erano le gratte, no? Però erano attaccate queste gratte con i tassetti, le hanno smontate, hanno svitato, hanno messo lì sopra il marmo ad avanzare, sono entrati dentro da lì, sono arrivati dal tetto hanno saltato in giù e sono entrati nell'attico. Ma è gente che secondo me sapeva i movimenti, perché lì segna, qui esce verso le due, loro l'hanno fatto verso una, questo lavoro qua, e poi se ne sono scappati. Ma questa aveva oro, gioielli, così è? È tutto quello che aveva, roba d'argento, sopravvotti d'argento, cosa, o vassoio, fanno dire, ma fa. Insomma, tutta roba di valore, insomma, computer, tutto invece di valia. Veglia, ma in oggi oro e gioielli non vinne, alla fine. Non è che... ma uno si presume, se ce le ha è benestante, no? Se si può permettere oro e gioielli, sopravviverà. Comunque, sì, adesso vabbè, Claudio è impegnato, poi è dolorante anche, il problema è quello. È un po' di schiena, mal di schiena, ho capito. Però la macchina mia è vecchia, ammottinaggio anche dentro. Quindi non c'è problema per trasportare roba un po' così. Ah, si può lasciare comprare il caffè. E il caso non è che sta bene, la faccio da tutti. Ma se mi fa, mi sembra che la dovrà piantare in buca. Il caso la dovrà mettere al posto dove va a mettere le boccole radiali, con basta. E ne l'ha fatto il gioco, perché la terra non ci aveva. Eia. Bene. Ah, Nicola, mi sembra che adesso tu abbia un bel segnale, vediamo. Sulla bocca dell'ombrello. La sassa di due. Ma lo smitter ce l'ha? C'è qualcuno su canale 10? Ah, guarda, c'è sì. Ciao Giuseppe. Ma no, ho fatto chiamata per vedere se c'era qualcuno. Adesso mi hai risposto tu. Come mai? Vedi lontano dalla radio per avermi risposto dopo un po'. Perché stava parlando con io. Stava parlando con io, tu forse non lo sei. Abbiamo lasciato un attimo di bianco perché stava parlando. Ah, vabbè, Giulio, tutto ok. Ciao già. Insomma, tutto ok. Diciamo sì e diciamo no. In questo periodo è un po' pesante, un po' difficile la situazione. Però già si va avanti. Poi oltre a te e a Giuseppe che ha detto Lupo Grigio, ciao Lupo Grigio, se mi stai ascoltando. Io ancora non ti ho sentito, anzi non avevo sentito nessuno, ho fatto chiamata perché non sentivo nessuno, per cui adesso invece ce la va, meglio così, dai. C'è qualcosa di altro? Sì, c'è Gianfranco e c'è Marco. Ah, ok, ciao Marco, ciao Gianfranco, se mi ascoltate. Bene, dai. E io sono qua, quanto chiacchiere insieme facciamo, dai, avanti. Gianfranco, ci sei? Ti confermo, ciao Giulio, buona serata, ben ascoltato. Niente, ti senti? Io ti sento perlomeno abbastanza bene, senza problemi. Adesso sento anche molto bene Nicola, S9, e Piccioli, radio abbastanza buona, radio 4. Volevo chiedere a Marco una cortesia, se si poteva un attimino spostare sul 14, volevo chiedere una cosa, una cortesia. Riprendi il piano. 14 esecutivo. Ciao Giulio, ben sentito. Appaga e riprendo. Adesso Giulio eravamo un po' di tempo senza sentire, non ha mai. Così tanto non era così importante la situazione, nel senso che quando accendevo non c'era nessuno, quando accendevo non c'era nessuno per niente. L'avrei fatto anche adesso, meno male che mi sono trattenuto un attimo, perché se no quando ho fatto chiamata ho sentito che nessuno era pronto a rispondere, stavo per chiudere. Ah, mettiamo il posto subito. Mi sono trattenuto un attimino che stavo guardando l'orologio che ora è Torino. E no, dai, se no addirittura avrei fatto chiamata e poi sarei sparito. Perché avrei chiuso per passare via ad aspettare cosa stava così. Vabbè, c'era un componente, un po' di influenza, che va preso in questo caso, non influenza, eccetera, eccetera, abbiamo passato anche un altro po' di chiusi, ma tutto il pezzo della terapia, ossia che questo paziente, che quando faccio con la terapia, poi per un paio di giorni, per buttare giù, e adesso mi sto riprendendo, diciamo che mi sto riprendendo, dai. No, ma Giulio, noi ci siamo tutti i giorni, dopo le 6 e un quarto, 6 e mezza ci siamo tutti i giorni, poi c'è l'orario che non coincideva quando accendevi, perché noi ci siamo sempre, tutti i giorni noi siamo molto là. Vabbè, ma io accendevo a 2 anni e 8, secondo dei giorni, e un po' se non sentivo nessuno, un po' non c'era poi tanta voglia, allora basta. Non rimanevo andata. E vabbè, dai. Sembra che Gianfranco si sia portato con il mio amico. Sembra aver capito così. Avanti Giuseppe. Ma io non mi sono accorto di niente. No, non mi sono nemmeno avvicinato alla finestra, per cui qui è tutto rilassato, per il caldo, eccetera. Per cui non lo so, Giuseppe. Vai! E all'arrivo sono singhiotto, non è che camuffisci, capito? Ogni tanto è da qualcuno. Mi pare che sono sul 12 o sul 15, sono per le cose. Sì, ciao Nico. Sì, che ti sento, ma insomma gli ti sento, come sempre, insomma, ecco. Adesso che ho fatto attenzione nell'ascoltarti, dunque già ti sento, già capisco quello che dici, vai, ti prendi. Giuseppe, mi sentivi basso? Sempre con lo solito di polo stai andando tu? Sì, mi rivolgevo a te, sì. Ok, no, anch'io ti ascolto bene. Ho chiesto se stai andando sempre con il polo o se ti metto qualche altro spettatore, non so, vedi? Sì, no, già va bene, è più che sufficiente. Sta abbastanza bene, signor Gabi. Santiago è 6, quasi 6, siamo arrivati 7, però la radio è ottima, va benissimo, come sempre, insomma, ecco, tutto lì. Avanti già. Sì, a Giuseppe, ma che attacco c'ha quell'antenna lì? Ah, di quella vita me la dice lei. Perché io ho la Turbo 2001 che io adesso non uso più, ce l'ho sopra la cucina, l'ho messa. È una pulita e se ti va bene ti metti quella lì, quella ti fa andare come la mantova. Io mi ricordo che da giù arriva con lo stesso segnale che con la mantova da casa. Sì, nel camper va bene, se c'è l'attacco della BBC 800 va bene, perché io le scambiavo, ogni tanto mettevo la BBC 800 che è stata la Turbo 2001. E poco a poco quell'antenna, io da fondottore se parlavo con Alghero, che è un po' difficile, e parlavo con Alghero da fondottore, si dà la macchina, va camminando e non c'è problema, se ce l'ho fermo, non la sto usando, posso fare una cosa per la faccia. Ehi, la sarebbe una cosa migliore, ma tu già lo so, anche ti capisco da quel punto di vista, perché è sempre una lotta quando vuole le antenne. Tutti gli studi che c'hanno, e quello mi sono appena nel baracchino, poi ne hai uno vicino. Non so, all'inizio stavo rompendo le scatole anche a me, quello mentre che lo spatteravo, lo facevo e io, guarda che ci sono 30 anni qua, se sei venuta adesso a 30, ti ho detto. sono così. E poi c'è anche l'antenna che non va bene. Sai cosa ti dico? Sino a quando non c'eri tu l'antenna andava bene, adesso che ci sei tu non va bene, che ci sei tu che K. Io adesso devo andare a fare l'iniezione di farina, che sono le 7 e mi tocca l'iniezione. Riprendete voi, Giulio, riprendete voi, vi faccio l'iniezione e mi tocca. Ok. Ok, dai, allora sono rimasto con Nicola e basta. Va bene, avanti Nico. Ancora qui diciamo che non si è sviluppato molto, ma dicono che ce ne siano in Sardegna 19 casi, ne hanno registrato, poi bisogna vedere se la verità è quella o se effettivamente ce ne sono tanti altri. Sì, perché sono venuti da fuori, sono venuti da Milano e soprattutto, l'hai visto ieri in televisione, sembravano scappando dalla guerra quella gente. Stavano venendo in Sardegna per andare ad abitare sulle seconde case e dunque ne hanno portato anche qua il virus, questi disgraziati. Ma quando mai ci stanno dicendo da giorni che non si deve muovere di casa perché sennò la cosa diventa di più difficile, e invece no, scappando questa gente, rimanetene a casa e vedrai che non ti succede niente. Invece no, dovevano farsi le vacanze in Sardegna, capito? Ecco qual è il discorso. Questi bastardi di milionari, miliardari, come li vuoi chiamare, che vengono qua, ragazzi, stavolta che si comprano i terreni e le case della Sardegna, poi se ne portano anche le malattie, se ne portano questi bastardacci. Niente, no, perché vedi, quando uno del sud va a lavorare o ad abitare o a cercare casa lì al nord, ti mettono addirittura il cartello, ti mettono, non si affitta al persone del sud. E questi bastardi, grazie, perché hanno adesso questo problema, loro lì vengono al sud per cercare di salvare. Ma delle mani. E così cosa succede? Succede che non fanno altro che ampliare il discorso del virus. Perché se prima era circoscritta in una certa zona e poi se le persone si spostano continuamente, non fanno altro che ampliare il virus dappertutto. pericolosa per la società, questa gente che non merita di vivere all'interno di una civiltà come si deve, per carità. Non è possibile. Ma dimmi tu, se uno che è carcerato deve avere dei diritti, se non quelli solamente di darti da mangiare, da vivere e farti scontare la pena. E hai anche la pretesa di protestare, su quale base hai di protestare? Casomai sono io, personalmente, che devo protestare nei tuoi confronti, non tu che devi fare quello che stai combinando, facendo danno alla persona. Per carità, ma è una vergogna veramente. Ma... fanno di tutto per rovinare sempre di più la nazione. È vergognoso veramente che la gente, come si deve essere in balia di questi delinquenti, perché per me se uno arriva ad essere carcerato, perché vuol dire che è un malvivente, vuol dire che è un delinquente, io la penso così. Ci vorrebbe veramente della legge che sa fargli veramente pagare quello che combinano, per carità. Le prendi già. E io adesso che sono fatto l'iniezione sono a posto, dai. Devo fare ogni giorno questa iniezione in farina. Dopo l'operazione sto battendo un po' di dolori. C'è l'operazione a piedi che hanno fatto? No, alla gamba. Come la gamba? Quel famoso discorso del femore? E allora? Oh, e che cosa c'era nel femore? Avevo praticamente la cartilagine consumata e mi aveva consumato anche la testa dell'osso, era bianca invece che essere rotonda. Stava toccando osso con osso. E beh, cosa ti hanno fatto? In pochi giorni ti hanno fatto l'operazione, così? In pochi giorni, erano 12 giorni all'ospedale. 12 giorni all'ospedale e poi mi hanno mandato a casa. E sì, mi hanno fatto l'operazione, mi hanno ricoperato 2 giorni di fa e venerdì mi hanno fatto delle analisi, sabato e domenica non mi hanno fatto nulla e martedì mi hanno operato, lunedì lo stesso, martedì mi hanno operato. E sono stato 12 giorni in ospedale, poi mi hanno mandato a casa. Adesso ho fatto la domanda perché venga la fisioterapista, ma ancora non si vede, quindi sto facendo fisioterapia da solo. C'è tutte le manovre, diciamo, che mi hanno dato loro con un depliant e sto facendo le manovre che mi hanno dato loro. Ma grazie a Dio sto già camminando con le stampelle, a volte le torne cammino senza, un po' tutto in casa ma sto camminando. Meglio vuol dire che se è stato un pallato almeno hai risolto un problema. Adesso si tratta naturalmente di attrezzare, avere un po' di pazienza per la guarigione. E tu pensa che il fratello era stato operato 5 mesi fa, è rientrato al lavoro, saranno 15 giorni fa. E si è fatto a tempo. Ma ti hanno fatto anche a te la cosa, come si dice, la protesi? Certo, sì, sì. Ma ho tagliato la testa dell'osso e messo la protesi. Quale tempo ci vuole per guarire bene, però devo dire che grazie a Dio già si risolve, ci vuole un po' di tempo. Ripeto, mio fratello è stato 5 mesi in malattia, dopo l'avevano fatto il controllo per vedere se poteva riprendere il lavoro e gli avevano dato altri 10 giorni. Però dopo 10 giorni è dovuto rientrare, però diciamo che cammina tranquillamente, no? Non ci sono problemi. È chiaro che devi stare attento perché ci vuole, per accettarsi bene veramente ci vuole almeno un anno, così gli hanno detto, già. Lo so. C'è praticamente il problema che si possa rossare l'osso, secondo che movimento fai. Per dire, per girare non ti puoi girare di corpo se ti chiamano, devi girarti a passettini e tornare indietro. Ci sono tutte le manovre, capito, da fare. Io me le ho studiate tutte per bene, adesso sono oramai, lo posso fare anche agli altri, la fisioterapia, perché ho imparato a memoria. Sì, sì, sì, perché mio fratello l'ha fatto una quindicina di giorni, poi alla fine si è stancato, ha detto, boh, basta, non ci vengo più a fare fisioterapia, perché tutte le volte che vengo qua mi fai male. Dice, però mi dicevano, se tu hai un po' di dolore, chiaramente è normale. E ha detto, vabbè, e poi invece se l'ha fatta da solo, pagava 25 euro al giorno per ogni seduta di corso di fisioterapia, 25 euro pagava tutti i giorni. Ma te lo mandano anche da Vescere, perché pagare quando te lo mandano a casa? Io ho chiesto di mandarlo a casa, era impossibilitato, io sono solo, quindi me la mandano a casa, capito? Però può essere fra due giorni come può essere fra due mesi, io non posso stare due mesi aspettando a loro, così mi si fa la gamba di legno. Beh certo, quello sì, va bene, io così. Vabbè dai, dopo al prossimo passaggio mi dici come sto uscendo, sia di radio che di segnale. Avanti Nicola. KK, me lo auguro. Avanti Luca, buonasera. Ciao, non c'era nessuno, beh già. E dove sei? A Domos? A Marina. Cazzo, sta arrivando bene. Perché prima non arrivavo bene? 9.30 giro, come fai a essere da Marina? 9.30, con una via di Luca. Se vuoi andare anche la capitola, mi faccio lo smic. Già, sono andato a posto del radiale, sì. No, non me l'hai mandata, però posso capire com'è, so come è fatto il radiale. Allora, se volete ritirare quella roba, Marco Condo è disponibile a mettere la macchina, se non ce la metti voi. Adesso fate un fischio che viene con la macchina sua e ve li portate via. Quando vuole, se vuole macchina sono libero, se vuole. Ma deve portare sulla Claudio, capito? Ma le dovete portare dove? Da Marina oppure da Claudio? Claudio la deve riparare con l'antenna già, della Marina. La Marina se metto faccio la game master, la faccio costruire da Luca. Adesso vediamo, dai. Ma lui la stava facendo per te di fare questa antenna. Se non la vuoi tu, io più dirà tu. A Claudio la voleva recuperare comunque sia, eh. La voleva dare a te, vabbè, comunque. Non lo so. Claudio non sta bene, sta facendo le iniezioni anche dai dolori, questo non ce la fa a portare la roba giù. Pure no, anche che sono messo bene, ieri. Ma tu per Mario? Sto aspettando per fare questa fisioterapia. Ma comunque. Tanto vediamo, là ce n'è tanto già su quando abbiamo la sciacquata, una bella sciacquata di acqua calda, calda calda, lì c'è il freschetto, si sente. Non so chi c'era, dai, poi riprende chi c'era, ritorno subito. C'è Giulio, il pomeriggio, Marco Condor, Gianfranco, si sono entrati, io. Oggi manca Tonino, grazie. Lo sai Giulio che è rientrato Tonino Cavasano? Sì, io lo so, io ci ho parlato anche, io lo so. E lo vedevo ogni tanto, ora stavo facendo servizio civico lì alla scuola che c'è in via Piazza d'Armi, lì a... Va. E vabbè lì dove... adesso non mi ricordo, l'Istituto d'Arte. Però lo vedevo spesso perché lui faceva con la sua ditta controlli di cose, là. Non so, di impianto elettrico, queste cose dalla scuola. Ah, ma no, ma stavo dicendo a Giulio di te, già lo sapevo che lo sapevo. A Giulio stavo dicendo. Ah, ok, avanti Giulio. Ok. Ciao Luca. Ah, vabbè, sono contento che sia rientrato Tonino Cavasato. Avevo modo di sentirlo quando capiterà. Sì, ti avevo chiesto, Gianni, il segnale ti avevo chiesto è la radio. Com'è? Volevo quello poc'anzi, forse ti sei dimenticato. Nel precedente passaggio che ho rilanciato per a Nicola ti avevo chiesto. Vai Gianni. No, già ce l'avevo in mente di dato. 9.30, sì, Radio 5, va benissimo. Cosa stai usando? La Game Master originale? No, sempre nella solita situazione. Sempre quella, sempre qua. Niente di nuovo. Va bene, avanti Nicola. Ma riprendi Dani allora? Ok, dai, provo, dai, vediamo un po'. È capretto, giusto. Noi non ci abbiamo messo l'antenne. Diciamo che l'abbiamo in un certo qual modo intuito, perché in quella zona dove abita lui, sempre che abiti lui, sempre quella stessa zona, per quadrato come si chiama, là, non mi ricordo quella zona lì come che via è, avevo intravisto questa antenna e ho pensato, ma questa deve essere l'antenna di Tonino, deve essere, evidentemente deve essere un certo, però non entra, qua avevo pensato così. Oh, Torino abita dopo San Camillo adesso, non abita più. Abita dopo San Camillo. Ah, vabbè, meglio così allora. No, perché in quella zona lì, dove non mi ricordo come si chiama, lo sai dove è il quadrato plasso, in quella zona lì, c'è un'antenna, no? Praticamente era nella zona dove abitava prima Torino. E avevo pensato che lui era sempre attivo lì. Ah, non sapevo, vabbè. Meglio così, là, lo sentirò quando capita. Io sono rimasto che Torino abitava via Maddalena, figurati. Non sapevo che avesse cambiato casa e cose. L'ho trovato da poco ai giardini che ero con Luca. Abbiamo trovato la festa che c'è ai giardini d'estate e mi ha detto che abitava lì. Quella zona lì, lo so, me l'ha ancora dopo. Non so che via è buona quella. Ma comunque, meglio così. Vediamo se è rientrato Marco. Adesso se è rientrato Marco o Gianfranco, ti lascio con loro, io più. Avanti Marco, ci sei? Gianfranco, ci sei? Non ci sono già. Spariti sono, ma noi già siamo in pochi. Voglia andare, vabbè. Non dobbiamo noi, cosa devi fare? Ce ne sono andati, c'è Luca, dai, avanti. No, Luca, è andato a prendere la luce, adesso è in pochi. Okay. E quindi sono in convalescenza giù. Piano piano sto camminando, come sta bene, senza, insomma un po' di tutto faccio, prima con questa bene, poi con una e poi senza. Anche senza già mi rego abbastanza, solo che mi sta consumando adesso. Beh certo, già lo so che c'è fatto. Vabbè, la gamba dove già lo stesso un problema del piede, già. No ragazzi, volato, nella sinistra. E niente, i primi giorni sono stato mal male, mi veniva da svenire. Non mi potevo andare in piedi che mi veniva a cappuccino, mi dovevano scomunicare. Già lo so, sì, è una operazione molto, molto pesante la sostenente, già lo so, sì. Purtroppo la vita si riserva a quelle altre, già lo sai, come. E vabbè, io adesso ho finito la fase della terapia e dovrò riprendere fra 6 mesi, così è quello che mi hanno detto. Però devo fare sempre sotto controllo, nel frattempo dovrò fare altre due o tre visite e poi si riprende con quella stessa. La stessa medicina che mi hanno fatto fino a qualche giorno fa. Buonasera a tutti. Qui lo profeta, buonasera. Meglio, meglio così, dai. Bene, lo profeta. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, ciao Giulio. Messaggio per Giulio. Hai in sottofondo un rosier alternata. È basso, però c'è un po' di alternata giù. Le cuffie ci sono vicino. Ci sono le cuffie vicino. Dunque metto questa che spesso qua. Adesso aspetta, adesso c'è solo la pentola dell'alimentatore. Solo quella, adesso devo sentire solo questa. Sì, il sottofondo sente qualcosa. Niente, giusto, l'ho sentito e quindi era giusto dirtelo. E niente, dai. Ho acceso 30 secondi fa, ho sentito e niente, quindi sono entrato. L'ho vista, Giulio, quell'antenna che dici tu al centro storico, è una mantova, adesso non so che tipo di mantova sia, comunque credo che sia una mantova l'antenna di cui stai parlando. Non ti ho fatto caso di che antenna può essere, però è sicuramente un'antenna per questa frequenza, per cui io da un bel po' di tempo che l'avevo vista, per cui non so se c'è ancora. Vabbè, comunque se fa sentire già siamo qua. KK, sì, c'è ancora, confermo. Ogni tanto mi capita di passare vicino ed è sempre lì. Niente, vabbè, piccola curiosità, avanti già. Magari entra la frangente, così si popolerebbe un po' la frequenza. Qualcuno sta entrando. Anche dei vecchi CP tipo Torino Kawasaki, che è stato da poco, era un vecchio CP degli anni 70. Ehi, già c'era anche l'altra sera, c'era anche lui, ti ricordi? Era qualche sera fa che è entrato, quindi già ci siamo sentiti. Sì, ci ha ripiazzato la stazione. Ehi, meglio così, dai. Gli altri sono tutti scappati, no? Penso proprio di sì. Marco è andato con Gianfranco in un altro canale e sono spariti, non è più rientrato. Siamo rimasti io e più nel pomeriggio, avanti per il pomeriggio, c'è arrivato al terrazzino. Un pomeriggio. Si è portato là, forse ancora non è arrivato a destinazione. Ma poi dai, io vi lascio, ci sentiamo, dai. Lì mi riposo un lavoro, perché sono stato un po' di giorni con una tosse tremenda. Non tanto, più che altro causato dal cantato. Avevo questo cantato ancora e mi provocava la tosse. Per effetto di quella terapia che ho fatto già, perché tutte le volte che io faccio quella terapia mi butta giù per un paio di giorni e poi magari anche dolori muscolari eccetera, queste cose qua, quello è l'effetto che mi ha fatto. C'è gente che subisce cose ancora più pesanti, però almeno fa fare effetto, adesso dovrò riposare per un bel po' di tempo. Grazie a Dio, sperando che tutto sempre sia a posto, è l'ultimo controllo che avevo fatto da tutte le volte, per cui quei giorni periodicamente li devo fare, ci manca bene, adesso devo andare il 2 aprile, che poi magari per fare l'altro controllo e poi mi diranno loro quando mi devono ripresentare. Ma buona, io vi saluto. Ciao Gianni. Gianni lo prefetta e Gianni doppio alle due. Ciao Nicola, se mi stai ascoltando, Marco se ci sei, e Gianfranco, io ascolto il finalino e dopo che chiudo, dai pure lo prefetta. Ehi, andare, dai, alle prossime giù. Buona serata e ci risentiamo quanto prima. Andare, avanti già. Ciao Giulio, dai, con la continuazione di serata, grazie per il questione. Avanti lo profetta, vediamo un po' se è rientrato anche Marco Condor, Gianfranco, dovrà rientrare anche Giuseppe Tornado, vediamo un pochettino. Magari sono spostati da un'altra parte, dovevano sicuramente magari dovevo parlare di altre questioni per non intasare il canale. Vediamo se c'è Nicola, ci sia l'ascolto? Quello ha rinunciato perché stava sul tetto, stava piovendo, c'era freddo eccetera eccetera, e quindi se ne è sceso giù, perché riprendeva la casa. Ah ecco, quindi era fuori casa. Non avevo capito. Magari cioè, sicuramente lo sentiremo più basso il segnale, dai. Era sul tetto, capito. Con l'ombrello aperto, questa attenzione ai temporali, cazzo, non si sa mai chi ci ha buttato l'ombrello. Non è igienico trafficare quella roba lì. Se ci sono temporali, soprattutto fulmini, dai. Appunto, ma non è, che funzione di bere di coppa, non è che tu puoi far vedere quando viene, per cui è meglio sempre non usare queste cose quando c'è un fumo. Anche l'antenna di un apparato portatile può portarti la stazione. Come è maledetto, ha fatto certi danni, avvicinati. Già ti ascoltiamo Nicola, dai, non tanto forte ma ti ascoltiamo. Sì, dai, già ti ascoltiamo, tu lo ascolti. Sì, sì, buonasera Nicola, io ti sento forte e chiaro. E perché? Perché non arrivati? Ah, kappa, va bene. Vediamo un po' se sono arrivati Marco in conto degli altri. Marco, ci sei? Ci ha abbandonato Marco, secondo me è anche giusto, si è messo a mangiare. Probabile. Ha trovato la scusa ed è scappato. Kappa, non so... teste maghette, kappa, va bene, magari ti sentiamo anche dal gay. Comunque tu la domanda era di amatore, la puoi sempre fare, lo sai. Ma lì ci sono i punti, il colpo d'accare di tutte le parti, ci sono i punti rari. Vabbè, comunque tu mi hai detto che dopo un anno non potevi più farlo, invece io mi sono informato e mi hanno detto che quello lì è la patente da militare a civile, quello lì sì. Però la patente di radioamatore è sempre valida, quando tu sei un radio hai lavorato le telecomunicazioni, puoi fare quella roba lì. Tu ti puoi prendere, puoi dire un VHF, un VU e modulare anche col portatile, diciamo, radioamatoriale. E sei in regola, capito? Avanti, numero... vabbè, col portatile dubito che arrivi qua a Sassari, chiaramente senza ponte. non penso che arrivi, dai. Col portatile parli anche continente, non ci sono problemi, è visto da me. Se esci il ponte parli anche col continente, non solo di parlare con Sassari. Io te l'ho detto, quindi cosa fai? Tranquillo che chi me l'ha detto è una persona che ha entrata, è stato presidente, eccetera, eccetera, di radioamatori, quindi immagina. Niente, no, io ti ascolto. Deve essere un profeta, c'è lontanato, come se la sigaretta. Mandi, mi ascolti. Cappa, avanti, Massi. Ciao già, mi dai un controllo, ho cambiato radio. Prova. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. Segnale 9.30, la radio 5, è abbastanza buona. Sta buona, va bene così? Ma tu già, tutti i 9.30 da Rimini. Cosa? Tutti i 9.30 da Rimini. E cosa vuol dire questo? Se arriva 9.30 non è possibile che arriva 9.20 o 9.10. Io 9.30, come un pezzo di cordo, andiamo 9.30, giù 9.30, lo dico. 9.30 ti arrivo. Perché quelle sono zone che arrivano così. Io non dico i segnali a mamma, dai, quello che vedo dico. Ci mancherebbe, ciao Massimiliano. Ciao Luca, a te faccio quanto ti arrivo, tu qua mi arrivi 6, eh. Qua tu sei 6 abiti di 7. Più o meno siamo lì allora, no? E tu sei 6 e vai leggermente avanti, non arrivi a 7, ma comunque più o meno ci equivalgono, dai. La radio però si sta rovinando, Massimiliano, non è più chiara. Cioè, allora, sei 5 picchi di 7. Ah, ok, già, forse magari sto gridando. Perché all'inizio era buono, adesso un po' rimane sacro, dai, un pochino sacro. Un pochino satura, non ho detto caduta. Da te è satura, Luca. Negativo, chiara, limpida, limpida. Forse magari arrivi più forte e inizi già un po' a saturare. A me è limpida, va bene, perfetto. Ah, ok, ah. Chi è che è entrato? Avanti. Va bene, dai, sento anche a Nicola, comunque, passo passo lo ascolto. Chi è che è entrato? Avanti. Va bene, ok, dai, rimango un po' in ascolto allora. Kappa, macchina, va bene, dai. Comunque, 9.30 il segnale. Confermo quel segnale che ti ho detto. Abbassa il macchinino però. Ma si mira a te, stavo dicendo, Mantalina, abbassare il macchinino. Che senso abbassare il macchinino? Ah, sei già. No, adesso lo provo, ma fa bene da me, come mai da voi arriva... Non lo so, a me va benissimo. Perché a te ti arriva più basso, vuol dire. poco alta. Prova di nuovo, Massimiliano. Guarda a vedere un po', 1, 2, 3, prova radio. No, perfetto, è limpio, se vuoi ti registra, te lo mando, Massimiliano. No, io ci credo, io non ho problemi, dai. Ho già fatto delle prove anche ieri e un po'. Mi hanno detto che va bene, forse magari ero troppo vicino al microfono, boh. Devi parlare da lontano e a voce bassa, non perché come alzi poco il tono della voce va a strappare. Addirittura strappa? No, fa, che stava andando troppo buco, vedi? Non andare, ok, da. Va bene, l'importante è che non strappi, da. Ok? Avanti. Ah, ecco. Vabbè, fai pure, avanti la salita. Ma ancora questa ancora non si è aggiustato con questa antenna, cioè deve stare fuori a modulare. Ma conviene che si metta un'antenna sul balcone, così anche di macchina, con un'antenna magnetica se ne sta dentro un calcio. Io non ho capito. Cioè, deve stare all'aperto, fuori, vi sta piovendo con questo portatile in mano. Si mette un'antenna sopra il balcone, anche di vettura, la collega al portatilino, sono sicuro che c'è meglio di stare fuori sul tetto. È che lui abita al basso, ma ci vede, c'è tutti i palazzi davanti. Lui dovrebbe metterla sul tetto direttamente e sarebbe una bomba uscirebbe perché è in alto anche. Ma ascolta me, Oggia, ma quanti di noi parliamo da dentro la macchina con l'antenna e siamo in mezzo ai palazzi e arrivo in bene? Cioè non è discorso quello, perché Natalino quando era con l'antennino di vettura non andava bene, eppure è chiuso mi. E vabbè, ma diciamo che ha meno possibilità, però in effetti è meglio che stare al freddo. Lui ha detto che è la scusa per uscire, capito? Perché lui gli piace camminare, gli piace andare in giro, capito? Adesso d'estate magari va anche bene. Ma ti immagini che vai in un disapparato così in giro, mi sta mancando. No, ma poi oltretutto, già, sono sicuro che se mette un'antenna così davanti alla finestra, sopra una piazza, così magari anche 20x20, con la calamita, uscirebbe anche più forte, capito? Ma anche di radio, invece così magari c'è quello che lo sente e quello che non lo sente. Va bene, dai, rimango un attimino qua ricce e mi sto saldando qualcosina, dai, sentiamo dopo. Io sono a Calduccio, sotto le coperte, sono benissimo. Avanti, Natale, e poi fai girare per il pubblico. Entro alla gamba tesa, scusatemi, correti per me. Saluti a tutti, alla prossima. Ciao ciao. Ciao profe, ci sentiamo. Anche io faccio QRT e sto per andare a cena, dai, ci sentiamo alle cruste, salutami a tutti. Ciao, dai, ci sentiamo. Avanti un pochino. Allora ti do un consiglio, ti prendo una base magnetica, un'antenna con la base magnetica, una base grande e l'antenna. Un'antenna però un po' lunga, di modo che ti sentano bene tutti. Anche di 1,80 m, 2 metri l'antenna, va bene. Tipo la Turbo 2001, montata sulla base magnetica, l'attacchi alla ringhiera e poi quando la devi usare la turbo. E ok, buon corretti, dai, ci sentiamo, buona serata. Ciao a tutti.